C'è che la vita mi sembra una messa in scena. Cos'è che mi frena? Cos'è che mi avvelena? Mi faccio pena, non riesco neanche a scendere la cena. Mi sembro fatto in vena, non mi rasserena l'idea che adesso c'ho la minchia piena. Ma il tempo mena, chi non si allena, chi mi si attacca al cazzo come una murena. Il tuo problema sarà giù nell'arena, tu contro la iena. Cos'è, ti caghi sotto, fiocco d'avena? Ci vuole schema e fondo schiena per azzeccare una serie intera. Dove non si sclera ci si svena, no dubro vudemera. La meraviglia e cypher se si grema. A spema ti premia una borghesia stemia. Ahimè lo re in strada e non in accademia. Zicchi nica menia, chi media si apre bocca dopo che si blocca. Anni il culo sulla sedia, si studia cercando vie di fuga. Dal solito parti in bermuda, fumando Buddha con la troia nuda che ti fruga. Per me ogni rima è una ruga, è un pezzo di merda chi buga, chi spaccia la tuga. Ma chi lavora i soldi se li suda, se li suda. È giusto o sbagliato che tutto vada a puttane, che ci sia sempre un cane pronto a fotterti anche il pane. È giusto o sbagliato che chi ci crede rimane, rimane, che tutto ciò che fai finisce a mare. È giusto o sbagliato che tutto vada a puttane, che ci sia sempre un cane pronto a fotterti anche il pane. È giusto o sbagliato che chi ci crede rimane, rimane, che tutto ciò che fai finisce a mare. Niente più chiacchiere, no. Dimostro ciò che valgo. La gola brucia il caldo. L'estate mette in risalto il tempo perso e guardo cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Cosa si salva e cosa è già bruciato in questa merda di mercato. Bisogna avere fegato, cervello, cuore e occhi e coglioni sempre al seguito. Nessuno ti fa credito, nessuno ti perdona. Intanto il tempo suona, funziona, che si salva chi ragiona. Chi si scogliona non regge il confronto, non si fa sconto a chi abbandona il campo. Non c'è scampo, il cambio è vantaggioso, la mette sulla punta, ma c'è chi spunta all'ultimo e pretende anche la giunta. La situazione è tragica, non c'è un cazzo da ridere. Uniti per combattere, divisi sul decidere. Non so a chi dare ascolto, sconvolto il volto è teso. Ogni volta che mi volto vedo il volto di un appeso. Arreso e molto spesso, offeso con me stesso. Ritorno sui miei passi perché il bello viene adesso. Raggiungo un compromesso, che sia sbagliato o meno, almeno sto sereno e nel frattempo mi alleno. È giusto o sbagliato che tutto vada a puttane, che ci sia sempre un cane pronto a fotterti anche il pane. È giusto o sbagliato che chi ci crede rimane, rimane, che tutto ciò che fai finisce a mare. È giusto o sbagliato che tutto vada a puttane, che ci sia sempre un cane pronto a fotterti anche il pane. È giusto o sbagliato che chi ci crede rimane, rimane, che tutto ciò che fai finisce a mare. E io, cioccolato bianco, farmacista, gente è merda, Sallocanda, Zicchi Nica, Psycho City, tre lettere. Terra sarda, questa è la nostra merda, Zinnigas. Con la stessa fame. Giusto o sbagliato? Giusto.